Qui abbiamo il sindaco di Taranto. No, assolutamente. No, non sono l'unico a chiamarlo così, però... Vabbè, grazie appunto per questa occasione, appunto la prima volta di essere venuto qui, mi fa molto piacere. E giusto due parole, insomma, per chi la conosce e per chi non la conosce, la città di Taranto, logicamente è una città che è salita agli onori della cronaca per la questione, diciamo, legata alla crisi dell'acciaio nazionale. Quindi è, diciamo, ormai inflazionata questa notizia, insomma, che la fabbrica deve essere salvata assolutamente per gli interessi nazionali. E poi magari della città di Taranto e di come appunto si vive quotidianamente, è difficile parlarne, è difficile che appunto se ne possa parlare normalmente, insomma, non esce fuori questo messaggio. Di conseguenza qui l'opportunità, alcuni la chiamano opportunità, altri la chiamano bisogno proprio di raccontare effettivamente che cosa poi succede nel territorio, e quindi le associazioni o comunque gli attivi o i movimenti, insomma, cercano di far uscire fuori, diciamo, altre storie. Quindi in questo caso l'occasione di aver incontrato per strada, insomma, Cioppe Caff, aver reincontrato per strada a Taranto, ci permette di, insomma, in un certo senso portarvi con questi 20 minuti, sì, in questa atmosfera di questa isola, che poi non era nient'altro che la città stessa di Taranto prima dell'Unità d'Italia. Quindi con l'Unità d'Italia la città diventa una città, diciamo, nazionale, necessaria a livello nazionale, perché vi si installano il più grande arsenale marittimo militare per la costruzione delle navi che poi sono state utilizzate per la prima e la seconda guerra mondiale dalla flotta italiana, insomma, militare, ed oggi è ancora un grande porto NATO internazionale, e poi è famosa soprattutto perché c'è stato questo mecenatismo, sperpero di soldi per la realizzazione del quarto centro siderurgico, il più grande a livello sia nazionale che internazionale, che poi appunto è una fabbrica che quest'oggi è stata, diciamo, vabbè, è stata ultimamente regalata ai privati, che sono dei vostri corregionali, insomma, sono i Riva. E al tempo stesso si prospetta un'idea di bonifica, di risarcimento della città, però poi, insomma, il centro storico rimane una periferia, e quindi è utile in questo caso, vabbè, fare presentazione o comunque andare in giro e raccontare che probabilmente non è che è stata spopolata o naturalmente, insomma, sono stati dei fattori, insomma, sociali e politici che hanno in un certo senso quasi, oserei dire, violentato una cultura, quindi una cosiddetta l'antropologia della città, perché appunto oggi passeggiandoci si scopre che la città, pur essendo una città sul mare, ha voltato le spalle al mare nella sua funzione sociale, quindi il mare non è tanto praticato, la coltivazione dei miteli, che è secolare, ora è in pericolo e non vengono per niente considerati nessun livello di incentivo o comunque di protezione, appunto, questi lavoratori, queste famiglie che sono cosiddetti autoctoni, e di conseguenza Taranto potrebbe diventare un grande affare, come forse lo stanno già pensando le varie banche e i vari gruppi di interesse. Quindi per noi è importante invece dare acqua ai semi e alle piccole piante di portatrici di racconti o comunque generatori di racconti che riescono a canalizzare appunto e raccontare in una maniera quanto più espressiva possibile, quanto più ricca possibile appunto la cosiddetta ricchezza delle risorse non sfruttate o comunque non conosciute. In questo caso il capitale umano che ne emerge è particolare, no? Perché comunque loro comunque, cioè, vivono tranquillamente la loro vita con in un certo senso considerano la produzione culturale o la produzione delle iniziative un semplice intrattenimento, come se fosse appunto un circolo ricreativo. Però poi sul campo, quando più vivi il territorio e sei per loro una sorta di riferimento, fortunatamente riesci a interagire e di conseguenza, diciamo, queste attività ci danno forza e quindi di conseguenza è importante andarle a raccontare in giro. Logicamente ci sono pure, c'è da rompere il ghiaccio, perché insomma fateci qualche domanda, perché sennò... Voglio sapere come hanno reagito gli abitanti quando hanno visto vivo. Cioè, la prendono, penso che una novità è sempre ben accetta, insomma. Loro vivono una quotidianità di persone che vengono da fuori magari e sono, non so, gli organi istituzionali repressivi, quindi vedono gente che viene da fuori e dice chi sono questi che vogliono darci, oppure magari vedono persone che cercano lì una cosa per andarsene, no? Magari appunto procacciatori di droga. Però in questo caso, quando vedono persone che si prodigano per attività, riescono, attività che vogliono farle rimanere là, no? Penso che, cioè, no, la risposta è più che positiva. Poi